siamo riusciti nella magia anche questa sera di riuscire a trovare un posto a sedere per tutti. Ecco, vi saluto, vi ringrazio di partecipare sempre numerosi alle nostre iniziative. È il secondo anno che organizziamo una presentazione del progetto Tutta mia la città, tutta tua la città, dell'Associazione Cristallo. Ringrazio Paola Bassetti, che è l'artefice di questo progetto, Davide Dell'Ai del Teatro Cristallo, e vorrei salutare anche alcune persone presenti in questa sala: Pio Fontana, la signora Tasin, che è in rappresentanza di Archeo Art, Ada Vita, Michele Lettieri, e poi ho visto anche l'architetto Azzolini. E questa biblioteca si adopera per far conoscere il territorio e per mettere a disposizione anche delle persone, di tutti coloro che sono interessati, del materiale, libri, documenti che possano ampliare le conoscenze della città, del territorio dove viviamo. È una missione che stiamo portando avanti da 12 anni e che piano piano si è articolata, si è arricchita anche sempre con nuove iniziative. Molto volentieri presentiamo, ecco, in anteprima questa iniziativa dell'Associazione Cristallo, che l'anno scorso ha visto una grandissima partecipazione nell'occasione della gita. Quest'anno sarà così visitato un altro quartiere e abbiamo chiamato anche due testimonianze, diciamo, storiche della nostra città, che vogliono dare il loro contributo, e li ringraziamo. Questa biblioteca si pone, diciamo, al confine di questo quartiere che verrà indagato e successivamente si trasferirà in un edificio che ha anche una fetta di storia della città, le ex Pascoli. E in questo senso siamo anche abbastanza sensibili a quella che è la tematica della salvaguardia di un paesaggio, di una tutela degli insiemi, ma anche di una documentazione di quella che è la storia della città e la sua naturale anche evoluzione in concomitanza delle nuove esigenze. Non mi dilungo molto, voglio salutarvi e ringraziare soprattutto anche i nostri ospiti e portare il saluto dell'assessore Tomasini. Cedo subito la parola a Paola e a Davide. Grazie. Buonasera, io sono Davide Dell'Ai del Teatro Cristallo e ringrazio Valeria Trevisan, direttrice della Biblioteca Provinciale, per l'accoglienza, per l'ospitalità, per questo intervento introduttivo della nostra passeggiata Tutta tua la città. E ci fa particolarmente piacere essere qui questa sera per consolidare questa collaborazione che è già iniziata l'anno scorso in occasione della prima edizione, e volentieri torniamo qua. E la passeggiata risponde a due obiettivi del Teatro Cristallo, che sono conoscenza e appropriazione, e noi abbiamo creduto di poterli declinare in una passeggiata guidata di cui oggi vi offriamo la seconda edizione. Sono parole peraltro care anche alla Biblioteca Provinciale, quindi in questo senso è il nostro partner ideale. E quest'anno la passeggiata riprende un po' da dove ci eravamo interrotti l'anno scorso, ma poi Paola entrerà senz'altro più nel dettaglio. Desidero ringraziare in particolare proprio Paola Bassetti, storica dell'arte, che è membro del nostro comitato culturale, senza la quale questo percorso non ci sarebbe. Buona serata. Ah, proprio. Posso dire una cosa prima che cominci? Prego. Io mi sono letta questo all'inizio mentre aspettavo adesso. Ho visto che è abbastanza tutto al negativo. Ho visto bande di giovani, la storia di bande di giovani che logico come sempre. Comunque ho visto una sfilza di nomi. Nomi non mi è piaciuto. Ci ho trovato due miei zii. Uno è morto poco tempo fa, fra quelli che si buttavano i sassi. Al che non voglio più stasera restare qua. Mi sono commossa. È morto da 2 anni questo mio zio. Me lo sono trovato qua fra quelli che si tiravano i sassi. No, non mi piace più questo. Grazie. Ma di cosa? Meno male. No, scusa. No, adesso. Allora. Allora, praticamente le testimonianze a cui facevo riferimento prima sono legate a una fetta di storia quotidiana, diciamo, della città. Quindi c'è stato l'ingegner Lettieri Michele, che è qui con noi, che ha riportato alcuni spezzoni della vita di quando era ragazzo, di quando era giovane, ecco, e che riguarda Viale Venezia, dove praticamente ha sempre abitato. Ecco. E non ci sono cose compromettenti, ecco, non c'è assolutamente niente di disdicevole, sono solo racconti di un'infanzia e di ragazzi che al momento potrebbero avere più di 90 anni probabilmente, e non sono racconti di vita particolare, insomma, solo la Viale Venezia come era vissuta dai ragazzi. Bene, se ho capito bene, si tratta di testimonianze, poi le chiariremo, le ascolteremo e ognuno farà, presumo, le proprie considerazioni, non ne sono a conoscenza nel dettaglio in questo momento. Buonasera, ringrazio anch'io i presenti, non mi aggiungo all'elenco dei lunghi ringraziamenti che sono stati fino adesso, peraltro comunque molto corretti e assolutamente dovuti. Aggiungo semplicemente la partnership del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, di cui faccio parte e che sempre ci dà una mano nel discorso degli indirizzari e in alcune parti, diciamo, collaborative e organizzative, e ringrazio l'architetto Azzolini che ci accompagnerà e farà un po' la parte del leone nella passeggiata del 21 di settembre, che come amico personale ho chiesto di aiutarmi in veste di esperto dell'architettura di questo periodo, che viene a dislocarsi proprio negli assi viari che avevamo scelto per quest'anno, cioè Viale Trieste e Viale Venezia. Il percorso dell'anno scorso, come detto, è stato un esperimento, un nuovo contenitore che il Comitato Culturale del Cristallo ha introdotto rispetto a temi riguardanti la città che fino a questo momento non aveva mai toccato. È stato un successo un po' fuori anche dalle aspettative, anche difficile da gestire l'anno scorso il 6 ottobre, però sicuramente molto incoraggiante, che ci ha così stimolato ad andare avanti, ripartendo un po' da lì anche fisicamente, perché l'anno scorso si è snodato attraverso il quartiere Europa Novacella, Don Bosco, concludendosi nel conventino di Maria Hain in via Novacella, e noi riprendiamo un po' idealmente poco più in là da Ponte Roma, se così vogliamo dire, per proseguire in linea retta fino alla fine di Viale Venezia. E prima di spiegare un pochino come si svolge il tutto, vorrei semplicemente, sperando di non deludere, dire che non raccontiamo qui oggi le tappe del 21 di settembre, perché altrimenti lo facciamo comodamente seduti, è inutile passeggiare, e vorrei qui dire perché secondo me, e non solo secondo me, perché in realtà il pensiero l'ho un po' rubato a un antropologo che stimo tantissimo, che si chiama Franco la Cecla, e che lavora proprio sulla relazione tra l'uomo e il rapporto con la città, e lavora con l'Università di Bologna facendo dei laboratori sull'urbanistica con gli studenti, molto molto belli. Dicevo, rubavo il pensiero proprio sull'importanza del rapporto del passeggiare, no? Quindi è inutile che stiamo qua seduti a raccontare la città, lo facciamo per presentare e spiegare l'iniziativa, e perché lo stare seduti e il guardare delle immagini permette magari un confronto con delle foto storiche che camminando non è possibile fare, ecco, tutto qui. Quindi il percorso e le tappe verranno toccate in realtà molto brevemente. Quello del camminare che volevo dire è che appunto la mappa personale della città che ognuno ha, della propria città nativa o della città in cui propriamente vive, è quella che ognuno di noi noi si costruisce appunto vivendo nel corso della vita ed è composta da un intricato sovrapporsi temporale, quindi nel corso del tempo, e spaziale, quindi fatta degli spazi che percorre, gli spazi fisici che sono i luoghi stessi, i palazzi, gli incroci, i semafori, le vie, le panchine, le case, anche luoghi che spariscono nel tempo, che si trasformano, che vengono abbattuti, ma anche luoghi mentali, cioè i ricordi, gli eventi, gli incontri, un incidente, le passioni, le abitudini, che sono invece luoghi di tipo mentale. E questi luoghi mentali insieme agli spazi fisici costruiscono un puzzle cognitivo composto quindi di immagini e di emozioni che si sovrappongono tramite la memoria anche in modo alle volte misteriosamente selettivo, no? E si stratificano nel nostro essere e nella nostra memoria, e questo è quello che ci ancora alla nostra capacità di orientamento. Questo fa sì che noi ci orientiamo nello spazio che impariamo a conoscere, in questo spazio mentale e in questo spazio fisico. Questo è lo spazio proprio, però è quello che io mi costruisco attraverso il sentire e attraverso l'esperienza. Quello però che è veramente importante per vivere la città è lo spazio comune, è quello condiviso, è quello che si costruisce attraverso la comunità, attraverso lo stare insieme. E questo può avvenire solo attraverso una frequentazione assidua e comune, continuativa nel tempo, di questi spazi. Ecco che la passeggiata, il camminare insieme, non la camminata mattutina perché fa bene alla salute, ma il camminare assieme, chiacchierando di questi luoghi, dando delle notizie, raccontando delle memorie storiche o recenti, costruisce un'amalgama di pensiero che è comune e diventa comune a persone di diverse età, permettendo l'appropriazione di questi spazi, appropriarsi nella memoria spaziale e mentale di questi luoghi significa vivere e far vivere la città nel presente e nel futuro. Ecco perché riteniamo che la passeggiata fatta in maniera anche molto leggera, chiacchierando, possa avere un valore culturale, emotivo e proprio anche di progressione del vivere della città estremamente importante. E questo è il pensiero di Franco La Cecla, di un antropologo naturalmente semplificato, ma che ci ha dato l'impulso a, come dire, a rendere fattibile e non ripetitivo rispetto a quella che può essere un'offerta turistica l'attraversare camminando vie della città con simboli e tracce che magari sono anche un po' inconsuete, non i soliti quartieri, non le solite vie, ma magari un pochino quelli che circondano il classico centro storico. Ecco, questo era un po' il cappello che volevo fare. Parto un piccolissimo filmato. Luogo con il linguaggio internazionale del movimento moderno. Dopo la prima guerra mondiale, quando la Paese diventa Italia, inizia a succedere poco, e a un certo punto l'Italia vuole fare qualcosa, vuole diventare Bolzano, città italiana, e manda i suoi architetti a fare un concorso, eccetera. Ma la curiosità o la popolarità della Radio 2 italiana di quei tempi è che è a doppia scuola, moderna, razionale, futurista, progressista, di stile internazionale, e quella storica fascista che ricorda l'impero romano. Adesso per noi che i sudtirolesi che hanno vissuto il fascismo politico e si intendevano molto meno di architettura, qualsiasi avventura che arriva a qualcuno in Italia era fascista. Perciò questo ingresso dell'architettura moderna che rappresenta l'architettura razionalista ha avuto difficoltà fino agli 70. In Italia durante il fascismo si può costruire in modo moderno e anche... Ecco, questo piccolo spezzone era solo proprio provocatorio per dire che questo giro, che comprende inevitabilmente strutture architettoniche che sono state realizzate durante gli anni 30, non potranno che probabilmente stimolare delle domande su quello che è stato quel periodo. Allora, non sarà dell'architettura fascista che si parlerà o dell'architettura del fascismo, ma sarà invece un'occasione per chiarire dove sta l'ambiguità e dove sta il confine tra l'architettura razionale, la modernità, la proposta innovativa e quella invece più, come posso dire, sporcata, decorata e ideologica, legata agli orpelli che caratterizzano sicuramente quel periodo e che tanto hanno fatto discutere e infastidito giustamente determinati momenti e determinate fasce della popolazione. Allora, non sarà una passeggiata ideologica, ma sarà una passeggiata di analisi di strutture attraverso la loro verità e la loro importanza costruttiva. Vorrei adesso velocemente fare una carrellata del PowerPoint, eccolo qui, e passare attraverso quelle che saranno le sei tappe che partiranno dal Lido, quindi dal piazzale del Lido, in cui in un colpo solo potremo vedere proprio anche questa differenza tra scusami, non è il mio computer, allora, tra quella che è la pulizia della forma razionale e delle geometrie pulite legate al discorso del rapporto diretto tra la forma e la funzione, che è quella appunto del Lido o dello stabilimento balneare realizzato tra il 29 e il 32, e il, qui torno poi un attimo indietro, e invece il confronto con l'ingresso alla tribuna centrale del campo sportivo Druso, dello stadio Druso, con i suoi colonnati a doppia altezza, con la sua grossa architrave e con la sua pomposità legata a quegli elementi del classicismo che ancora fornivano quella sicurezza nell'architettura che non riusciva ad abbandonare gli stilemi dello storicismo ottocentesco. Il Novecento ci porta alle forme della modernità razionale, ma vanno a confondersi storicamente con i regimi reazionari. Questo comporta un dualismo, una sovrapposizione di intenti e talvolta una confusione di stili che non ha, come dire, affrancato del tutto nella storia, o lo sta facendo tra gli addetti ai lavori, o l'ha fatto tra gli addetti ai lavori, tra la vera importanza dell'architettura, del razionalismo, anche per la storia della nostra città. Queste sono un paio di foto storiche del Lido, dove potete vedere la struttura ad L, dove potete vedere la campagna circostante, dove appunto... scusate, non è il mio computer... dove vedete la campagna circostante, dove invece adesso è costruito l'asse di Viale Trieste con tutte le sue case, le attuali scuole di Via Leonardo da Vinci. L'impianto è rimasto assolutamente quello attuale, compresa l'ubicazione delle piscine. E invece forse non tutti ricordano, non tutti sanno, sanno che i primi bagni pubblici, prima dell'inaugurazione del Lido nei primi anni 30, erano i bagni Gugler, ubicati poco più sopra lungo il Tarvera. Questa è una foto storica, se voi riconoscete queste sono le due case sulla riva orografica sinistra del Tarvera, dove adesso passa la ciclabile, per intenderci. I bagni Gugler erano sulla riva orografica destra, circa in questa zona. Questo era il fiume Tarvera con le sue varie diramazioni, questo è il ponte Tarvera. I Gugler sono una famiglia che da sempre detenevano terreni nella zona di via Orazio e via San Quirino, e alla metà dell'Ottocento aprono una sorta di piscina pubblica alimentata con le acque del Tarvera, che veniva utilizzata dalla popolazione bolzanina. Qualcuno mi ha anche detto che questa è la sua mamma che si tuffa, non so se posso dire chi è, qualcuno anche di presente. Questa invece è una chicca che vi offro, non pubblicata, che è un disegno che si trova all'archivio storico di un architetto, Karl Hochheder, della metà dell'Ottocento. Il disegno per il progetto che doveva essere realizzato per i bagni pubblici o per il Lido nella zona di via San Quirino, appunto visto il successo che i bagni Gugler avevano di pubblico, di impianto oserei dire mitteleuropeo, ottocentesco, monumentale, che invece è stato poi, per fortuna, sostituito con l'architettura razionale del Lido, considerata una delle più belle, uno dei più belli esempi, non solo a Bolzano ma assolutamente in Italia. È estremamente innovativa sia nell'impianto tecnologico che in quello funzionale. Questa è un'immagine degli anni 30, su questa foto c'è una data 1931 che è sbagliata, perché vedete che qui l'ex GIL è già costruita e quindi non può essere il 1931, perché l'ex GIL è di qualche anno dopo. È un saggio ginnico, come si usava a quei tempi, quando l'attività ginnico-sportiva, ancor più che un'attività fisica salutista e agonistica, era considerata un'attività di aggregazione giovanile e di aggregazione sociale, per cui queste grandi adunate con queste parate di taglio ginnico. La terza tappa sarà una tappa invece alla confluenza del fiume Isarco e Tarvera, se ne occuperà una geologa, Cristina Pitscheider, che ci spiegherà come diciamo, la città si è rapportata con i suoi fiumi e come questo rapporto è cambiato nel tempo, e mi sembra un tema molto interessante e anche molto poco affrontato, perché Bolzano è una città che per esempio nei secoli passati ha sofferto tantissimo delle alluvioni e ha una storia incredibile legata ai suoi argini. I suoi argini nel tempo, a forza di aumentare di volume, sono diventati le famose Wassermauer Promenade, per esempio nel 1905, che sono una delle bellezze della Bolzano storica, insomma della Bolzano del 1905. Questo è un pezzetto di una cartina storica molto molto lunga, che si trova al Tiroler Landesmuseum di Innsbruck, dove vedete appunto la confluenza di un fiume Tarvera ridotto a moltissimi rivoli in un alveo molto grande, con i vecchi argini ancora in legno, e un fiume Isarco molto impetuoso, con delle anse molto grandi che oggi non esistono più perché è stato rettificato con grossi lavori tra il 700 e l'800, una cartina che ci offre, se volessimo, tantissime informazioni, come la cappella di San Quirino, oggi interrata all'inizio di Viale Venezia, nel Maso Gugler, ecco di nuovo i Gugler che avevano tutte queste proprietà che nominavamo prima, e i bagni Gugler che si sono trovati poi successivamente a questa altezza, la cappella che oggi è sotto livello, perché con le alluvioni il livello della città si è molto alzato, la via che portava a Gries, un accenno al borgo di Gries col convento Muri e tante altre cose. Questa piccola cosa che vedete era la forca dove impiccavano i condannati a morte, che sapete per legge nel Medioevo dovevano essere uccisi fuori dalle mura della città. Questa è un'altra incisione, un acquaforte di Frans Martens, olandese, dove si vede l'Isarco alla confluenza del fiume Talvera, un fiume che era navigabile, anche di questo abbiamo perso la memoria, navigabile con delle zattere che però trasportavano moltissimo materiale fino all'Adige e dall'Adige fino a Verona. Non soltanto legname, ma anche sale, per esempio proveniente dalle miniere dell'Austria, dell'impero asburgico, e da Venezia spezie e sete, tutto trasportato in botti, ma insomma qui esuliamo anche un po' dall'argomento, botti che venivano costruite in una fabbrica che c'era, dove oggi c'è la fondazione della Cassa di Risparmio lungo il Talvera, e che per l'80% venivano costruite per il trasporto dei materiali e non per la conservazione del vino, perché erano degli imballaggi molto robusti e soprattutto galleggiavano in caso di incidenti, e quindi erano degli imballaggi per le merci molto, molto sicuri. Questa era la vecchia strada che portava a Trento, che passava sotto il Virgolo. Qui c'era il famoso ponte sull'Isar, che oggi è Ponte Loreto e che in realtà era il ponte più importante di Bolzano, molto più di Ponte Talvera. Abbiamo poi la quarta tappa che riguarda l'ex GIL, ci passeremo usando la ciclabile e la pedonabile che passa dietro, dove si vede appunto l'auditorium che oggi è dell'Eurac, un tempo appunto il complesso era l'ex GIL, costruita tra il 34 e il 35 da Francesco Mansutti e Gianni Miozzo, anche uno dei fiori all'occhiello della città di Bolzano, il rosso pompeiano, che è stato ridato con i restauri della fine degli anni 90 con l'aggiunta del complesso in cristallo di Klaus Kada, erano i colori originali, una pianta ad L come quella del Lido, con questa torretta a 5 piani che è il vano scala e che collega tutti gli edifici di servizio, essendo questo un luogo di ritrovo, di assistenza, di svago, con l'auditorium appunto che vedevamo prima. Questa è una foto storica dove si vede molto bene la pianta con questo elemento dinamico che collega il tutto, e questa sorta di pergolato areato che oggi non esiste più e che collegava l'entrata di quello che per un lungo tempo, lo ricorderete tutti, finché non è stato recuperato l'edificio come sede dell'Accademia Europea, è stato il tristissimo cinema Druso. E questa è una simpatica foto dell'interno, la GIL era la Gioventù Italiana del Littorio, che aveva però già una sede in via Vintola, per cui questa era stata trasformata nella sede femminile, nella Casa della Giovane Italiana, e questa era una rappresentazione teatrale nell'auditorium, per questo si vede un pubblico tutto femminile. Questa è una veduta recente, una veduta attuale di Ponte Druso, che è stato, come dire, smantellato in una sorta di ristrutturazione che non potrei definire tale, negli anni 70, in cui c'è stata questa spoliazione delle aquile in primis, ma anche per esempio delle bellissime balaustre in pietra che lo contraddistinguevano, grosso modo negli anni 70. Poi nel 2003-2004 è stato messo a posto quell'orrore di ferro che c'era prima, con questo rifacimento sobrio che richiama un po' lo stile storico precedente, con i pilastri che sorreggevano originariamente le aquile e una balaustra in pietra che ricorda un po' quella di Ponte Roma. Queste sono alcune foto storiche con le impalcature di legno durante la costruzione. Qui c'è scritto di nuovo il 31, io ritengo che sia un po' prima, insomma, perché nel 31 è stato inaugurato, il 28 ottobre, che era l'anniversario della marcia su Roma. E questa invece è un pochino più avanti, dove già si vede la copertura in porfido, e invece sono ancora vuoti i pilastri dove poi sono stati posti i fasci littori e le aquile, le sei aquile, tre per campata, che giacciono ancora nel cortile del Museo Civico, ma che verranno recuperate, se non ho capito male, e poste poi nel Museo del Monumento alla Vittoria, che dovrebbe aprire entro il 2014. Qui si vede la GIL invece ancora in costruzione. Il Ponte Druso è un ponte importantissimo dal punto di vista urbanistico per la città, perché viene, diciamo, a essere il secondo asse viario più importante, quello che collegava i nuovi quartieri, quindi la zona sportiva e creativa, diciamo così, con l'ex GIL, lo stadio Druso e naturalmente il Lido. Vi posso dare anche dei dati, insomma, sul grande ampliamento appunto della grande Bolzano, che voleva arrivare dai 25.000 ai 100.000 abitanti, collegava appunto con via Druso l'asse in costruzione di via Roma, arrivava in questi anni subito dopo il Ponte Roma, ma si collegava molto bene, che arrivava, diciamo, era pronta Viale Venezia, che collegava col Foro della Vittoria e naturalmente anche con poi la zona della stazione e la zona del centro storico, quindi diciamo si creava un grosso collegamento molto, molto ben congegnato e molto ben fatto per la città. Ecco il ponte finito negli anni 30 con la GIL sul fondo, che con la torretta svettava e era visibile da lontano. Sesta tappa, Viale Venezia, che è una via interessantissima, molto poco battuta, cioè molto battuta dai cittadini sia a piedi, forse ancor più in macchina, ma poco considerata dai nostri sguardi. Questa è la casa d'angolo con questo angolone smussato sulla sinistra, che fa angolo con via Fiume, la riconoscete tutti, con il rilievo di San Marco, e si trattava, diciamo, su committenza dell'Istituto Case Popolari di Venezia tra il 28 e il 30. In realtà non è che fossero case popolari, erano case borghesi volute per la borghesia, erano case molto belle, fatte appunto come quartiere castello di Venezia. Questa è una veduta attuale fatta apposta così, dove in pratica di Viale Venezia non si vede più niente, perché tra la doppia fila dei parcheggi, marciapiedi stretti, gli alberi grandi, non si vede più niente. Questo è uno sguardo al viale come lo si può percorrere oggi, e anche alzando lo sguardo poco si vede dei richiami gotici e rinascimentali a una Venezia che è incredibile, perché se ci mettessimo l'acqua e le gondole sarebbe lei. E questa è una foto spaesante, a mio avviso Treviso molto molto bella ai tempi della sua costruzione, dove ci sembra una via enorme, larga, insomma ancora senza gli alberi, visibile in tutte le sue particolarità che Carlo Azzolini saprà indicarci in ogni suo elemento di fascino il 21 settembre, se avrete voglia di venire, mi raccomando, con le scarpe da ginnastica. La passeggiata si concluderà all'asilo Omni, opera nazionale maternità e infanzia, questo è lo svolgimento della sigla di Giovanni Dorna del 35-36. Io sono andata in questo asilo, ho giocato in questa terrazza, mi sono sbucciata molto le ginocchia perché nonostante fosse previsto questo bellissimo cubo alleggerito da questi spazi finestrati in linea con i pilastri, c'è un bellissimo oggetto architettonico puro e razionale in cui era previsto un bellissimo giardino, non ci portavano mai, giocavamo in questa terrazza come i matti sbucciandoci le ginocchia, il giardino non l'abbiamo mai visto. Qui concludiamo la nostra passeggiata, ci sarà un bicchiere di vino, un taralluccio per gradire per chi lo vorrà. Vi segnalo solo questo bassorilievo, o forse anche un po' anche un alto rilievo perché le braccia qui fuoriescono, con la testa di Mussolini dove dice che se le culle sono vuote la nazione muore. Questo bassorilievo non c'è più, è stato rimosso e qualcuno magari se lo ricorda anche, e così insomma, e li concluderemo, quindi se vi farà piacere. Naturalmente il pieghevole contiene un piccolo riassunto informativo sui luoghi che ampiamente spiegheremo in quell'occasione, ma sempre sotto forma di chiacchierata divulgativa e piacevole, niente che sia per addetti ai lavori, e qui concluderei, vi ringrazio e per chi ha voglia ci vediamo il 21 settembre. Adesso avremo ancora un momento per ascoltare i nostri due ospiti. Iniziamo con Michele Lettieri. Gli adori cari. Ci racconti Viale Venezia. Allora. Guardiamo una foto. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Mettiamo vecchia Viale Venezia, mettiamo la vecchia Viale Venezia. Questa è la mia casa. È la sua casa, ecco, cominciamo da qua. Cioè, mia, dove abito. Niente di tutti questi luoghi, più che l'architettura o qualcosa del genere, io so che cosa facevamo in questi posti e ne abbiamo combinate di tutti i colori. Incominciamo dal Googler. Il Google era proibito fare entrare le donne, era solo per gli uomini, ma una volta alla settimana potevano entrare le donne, ma non dovevano esserci uomini. Ah, perché questa che si tuffa è una donna. La promiscuità era assolutamente proibita. E quando c'erano le donne, noi ragazzini, che il Lido l'avevamo, il nostro Lido ce lo facevamo noi fuori del Google, andavamo a vedere le donne in costume e bisognava fare i buchi sul tavolato di confine, ma i costumi erano molto castigati perché il pantaloncino delle donne arrivava fino al ginocchio, quindi l'unica cosa scoperta della donna era dal ginocchio al piede, poi arrivava di qua, un costume molto castigato, vabbè, ma per noi già era molto. Passiamo dal Guler ogni tanto. Ho visto queste manifestazioni. C'era la mania allora da parte dei, diciamo, dei capotazzi del regime, delle vecchie province, tutti avevano la voglia di vedere la città tedesca. C'è ancora oggi, tutti i presidenti della Repubblica vengono qui, i presidenti del Consiglio, perché sono curiosi di vedere l'Alto Adige com'è. Per noi era un piacere da una parte e un dispiacere dall'altra, perché noi andavamo tutti sabato al sabato fascista, ma quando venivano questi gerarchi venivano la domenica, quindi dovevamo andare anche la domenica. Da una parte ci dispiaceva, ma dall'altra era l'unico modo di vedere da lontano le ragazze, le giovani italiane, almeno a 100 metri minimo di distanza tra noi e loro. E si gesticolava, ecco, ognuno si cercava la sua donna facendo dei segnali. E mi è capitato più di una volta di avere delle mazzate, perché la ragazza faceva dei segnali, io ero convinto che le facesse a me, invece le faceva a quello dietro di me. Ma per dire, erano i primi incontri. E, però per di più, il lunedì eravamo giustificati, perché a quel periodo, sembra strano, oggi non c'è questa abitudine, c'era in ogni aula c'era un altoparlante. Il preside ogni lunedì mattina faceva una romanzina, c'erano tante cose da dire e parlava anche di queste domeniche. Una domenica che cosa accadde? Che doveva venire un gerarca fascista e non è venuto e ci hanno mandato a casa. Noi non sapevamo se eravamo giustificati o meno dalle elezioni. Lo sapremo domani, il preside cosa dice prima di che iniziano le elezioni. E il preside dice: i ragazzi non sono giustificati perché il gerarca non è arrivato. Avevamo una professoressa che aveva la mania di Dante, che ci piaceva, ma però un canto a memoria, figurarsi, un canto a memoria non è cosa semplice. Quella mattina c'era questo canto a memoria, ma noi eravamo convinti di essere giustificati. Il preside dice che non eravamo giustificati. La professoressa incomincia col registro, col dito che va su e giù, e quando arrivava a metà dove c'ero io, il cuore batteva. Ci siamo messi d'accordo in tre. Che cosa è accaduto? Lettieri venga fuori. E Lettieri grida e sviene. Gli altri due mi prendono e mi portano in infermeria. Dopo un po' di tempo arriva una ragazza, si chiamava Veschiliana. Arriva una ragazza e dice: Lettieri rimanga in infermeria, i due ritornano in classe. Sono tornati in classe e in due sono riusciti a prendere in due un 4, 2-1 e 2-1. Se la sono presa con me dopo. Io alla fine del quello sono dovuto scappare a casa perché mi volevano ammenare, perché loro avevano preso i due e io. Ma d'altronde sono stato fortunato. Ma io dico degli episodi così, basta che vedo qualche cosa e vediamo un po'. Ponte Druso. Io ho delle immagini del Ponte Druso, se le interessano le posso dare, man mano che è stata costruita 5-6 immagini. Una volta sono andato in una casa di riposo perché ho tutte queste immagini, ho una raccolta discreta, a proiettare queste diapositive. A un certo momento arriva nell'oscurità, che cosa arriva? Un'immagine del Ponte Druso con quattro operai. Si sente un grido, ghero anche lì, ghero anche lì. Un paralitico dall'emozione ha avuto la forza di alzarsi e sedersi. Una cosa incredibile, hanno acceso la luce e lui era tutto contento perché si era rivisto in questa... Lui era un muratore, un operaio manuale, non lo so. E Ponte Druso, Ponte Tavera, si chiamava Ponte Claudio una volta, cioè durante il periodo fascista. E Ponte Claudio, adesso voglio vedere così... la vecchiaia. Ci sono già tante cose. Ma ci sono tante cose perché in questi tre foglietti che avete c'è, l'ho dovuto fare stamattina in sette furia perché sta partendo la vista e l'udito è già andato, e praticamente c'è, io ho scritto questa storia del periodo anteguerra, e ci sono tutti i capitoli della guerra e del dopoguerra, come hanno vissuto i ragazzi, perché in certo qual modo sono stato sempre in mezzo a loro, anche perché ho fatto anche l'insegnante, quindi facendo l'insegnante sono stato sempre con i ragazzi e ci facevamo gli scherzi vicendevolmente. Cos'è accaduto? Che io una volta avevamo un preside troppo severo, ma si è assentato, e io ho mandato una circolare in giro a nome del preside, ho fatto una firma falsa a tutti gli insegnanti: sabato prossimo riunione alle 7:30. Il sabato la maggior parte avevano il giorno libero, avevano organizzato il loro fine settimana, e tutti alle 7:30 erano lì. Sono entrati nell'aula nell'aula dei professori, e sotto il lampadario c'era un pesce da aprire, perché quel sabato era primo aprile, c'era un pesce di aprire, e quindi si sono accorti che erano stati. Arriva il preside alle 9:30, inchiesta, e va bene, inchiesta. Allora in chiesa mi ha mandato a chiamare, e mi ha mandato a chiamare anche me. E tu mi devi fare un piacere, tu che conosci tutti mi devi far sapere chi secondo te. E io gli faccio: ma secondo te chi è stato? E lui: non lo so, non lo so. La seconda volta: ma secondo te chi è stato? A forza di dire secondo te chi è stato, e lui dice: ma forse sei stato tu. E chi vuoi che sia stato? Dico: sono stato io. E ma dovevi dirmelo. Allora gli ho detto una parolaccia, dico: ma scusa, io faccio uno scherzo, lo vengo a dire a te. E quindi abbiamo fatto questo scherzo. I ragazzi, siccome c'era un rapporto fra me e i ragazzi, sempre quando c'era da lavorare severi, ma quando non c'era da lavorare amici, i ragazzi l'anno dopo, sempre il primo aprile, che cosa succede? Avevo lezioni di pomeriggio, e nel fare la curva dal cortile e venire fuori dall'istituto dei geometri, sento un rumore vicino al muro. E mi fermo, questi maledetti mi avevano messo un pesce d'aprile, e io dovevo andare per tutta la città col pesce d'aprile. Io ho tagliato questo pesce, sono andato a casa, per fortuna non era tanto grande, l'ho messo su un foglio di carta e ho preso tanti punti. Quando sono tornato la settimana dopo, mi sono messo la maschera del cattivo, e tutti quanti tremavano perché se ci erano accorti che c'era qualcosa che non funzionava. E dico: oggi compito in classe, non abbiamo l'attrezzatura, l'ho portata io, avevo il foglio per tutti, e gli do una poligonale. La poligonale è un poligono che in genere uno chiama A, B, C, oppure 1, 2, 3, 4. Ma questo era un poligono particolare, A, S, T, R. I ragazzi erano, dice strano che un poligono così. Dopo due ore i ragazzi, quando hanno finito il lavoro, si sono trovati il pesce d'aprile sul disegno, perché loro svolgendo il tema come io l'avevo assegnato, si sono trovati il pesce d'aprile e tutto intorno pesce d'aprile per Von Lett, perché Von Lett era il nome che mi avevano dato su a scuola, e molto meglio di altri nomi, ma devo finire. E perché c'è anche, voleva sentire anche Ada, comunque. Niente, chiudo perché guardate che queste due pagine sono state estratte da circa 700 pagine e voi nel primo, io non vedo più, c'è come eravamo. Come eravamo, praticamente ci sono tutti gli scherzi che ci facevamo vicendevolmente, anche perché quando la bicicletta era il nostro sogno, per dire, ma non la proprietà, quello di mettere il sedere sulla sella. E tutte le mattine aspettavamo il postino che poveretto veniva nel cortile e ognuno di noi ci faceva fare un giro, ma ci teneva dietro quella sella. Poi sono venuto le motorine, quando sono venute le motorine molti di noi sono spariti e si sono ammogliati. Io ero addetto a comprare il regalo, 100 lire a testa, 200 lire a testa, e quindi facevamo il regalo. A un certo momento mi sono fatti i conti, avevo fatto più di 20 matrimoni e io ero in credito. Allora ho organizzato il mio matrimonio, ho detto i miei genitori Terroni mi hanno sposato con una ricca ereditiera americana, ci hanno creduto tutti e io nel frattempo sono andato all'università per qualche mese, sono tornato ma mi ero dimenticato di aver fatto questo scherzo e loro mi dicono quando ti sposi? Come chiedo ai più cari amici, ma l'hai detto tu che ti sposi? E allora bisogna fare qualcosa. Per fortuna è arrivato l'istituto Gonzaga, che aveva mi pare a Passosella, aveva un posto dove portare i ragazzi, siamo andati a fare i lavapiatti, abbiamo trovato i soldi per fare le partecipazioni e il vestito da sposa. Le partecipazioni le tiri Michele e lei si chiamava Mary Deritis Eklund California, lei quindi era americana. 27 gennaio del 51 ho mandato queste partecipazioni, ma le ho mandate alla Bolzano bene perché loro potevano fare i regali e sono arrivati parecchi regali a casa. E mio padre dice, questi sono questi regali. Sono corso da Senubero Sanchi e ho detto, guardi, i regali li lasci qua e io vengo a prenderli. Ma quando andavo a prendere, quanto costa questo regalo? 5.000 e mi dia 2.500. E avevo fatto i soldi per le partecipazioni, per il vestito da sposa, perché e poi... La ragazza avevo trovato. La sposa c'era davvero. L'unico difetto che aveva questa ragazza era bella. Io cercavo una ragazza un po' bruttina, non l'ho trovata. Vado la sera per misurare l'abito alla ragazza, Madonna santa, piangevano tutti. Cosa è successo? Il papà è grave. Ostia, piangevo anch'io perché dico domani dovevo andare a trovare una ragazza. A un certo momento esce il medico. E chi era il medico? Un mio amico che aveva fatto solo la terza liceo e che faceva abusivamente il medico. E io ho detto, guarda, devi venire a casa di... Era Garavelli, si chiamava, e la mamma faceva la sarta in Viale Venezia. E dico, perché sta poco bene, ma io ho da fare, guarda, se tu vuoi fare ancora il medico, devi ubbidirmi, altrimenti non lo fai più. Era uno dei pochi che sapeva che lui non faceva e non aveva la laurea. Praticamente viene lì dove stiamo da sposa, io vado, avevo corrotto anche un prete e avevo messo nella bacheca del Duomo la faccenda delle nozze, io vado prima e lui viene dopo e finiamo. Vi lascio un po' il posto perché sennò non finisco più. E dovete scusarmi, io vivo fra quattro mura, non parlo mai con nessuno, l'unico amico che ho è un gatto randagio che tutti i giorni viene a trovarmi, ma mica a me viene a trovare perché ogni giorno gli do la pappa. Facciamo quindi un applauso a Michele perché compie gli anni fra pochi giorni. Tra pochi giorni entro nella stanza dei novantenni, io non so perché celebrano il compleanno. Quando uno entra nei 90 anni, si deve godere i 90 anni. Quando finiscono i 90 anni, per noi l'unico sentiero è quello che va a Oltreciarco. Saluto. Grazie ancora l'ingegner Lettieri. Vi presento a Davita, che abita anche lei in Viale Venezia da parecchio tempo, ma soprattutto è una protagonista della costruzione dell'asilo. Non so se è roba mia. Vorrei parlarvi della mia impressione, tutto là, della mia impressione che ho avuto entrare in Bolzano e in Viale Venezia. Ma prima volevo concludere una cosa di Michele che non ha detto. È sempre stato un monello e mi ha raccontato che dove abito io, in Via Fiume, c'era un piccolo teatro, un piccolo cinema. E questo cinema andavano solo come Lido gli uomini, andavano solo i ragazzi. E come si chiamava? Cinema Palpa. Ma scusate, Palpa, non pensate male, al massimo poter toccare il braccio di una... Ingegnere, ne tolgo la parola. Allora, ecco, per dire che anche questo non ha detto, ma era un ricordo. Io entro in Viale Venezia, entro in Bolzano nel 32, c'era solo Viale Venezia, Ponte d'Uso, appena costruito, la passeggiata, parlo di queste cose che ho visto, non ho preparato niente, scusate come lo abbozzo, la passeggiata non esisteva, era tutto un cumulo di rottami che andavano dal Ponte d'Uso al Ponte Talvera. E c'erano su costruite alla bene meglio delle baracche dove gli operai della zona, che lavoravano nella zona, dormivano, potevano dormire. Questo era davanti alla casa dei ferrovieri, non la prima, la seconda, quella del centro. Io ho abitato già nel 32 in Via Fiume, la casa dove abito tuttora. Mi hanno chiesto alcuni anni fa di interessarmi del rione qui, San Quirino, e per cui ho raccolto dei dati e posso dire di avere, volevo parlare della scuola dell'asilo di Bologna, della scuola di San Quirino, del Cristo Re, perché faceva sempre parte del nostro gruppo. Allora, per accenno qualche cosa, scuola materna, non c'era, non, quando sono arrivata io era appena stata costruita, ma non c'erano l'ONEIC, che si chiama ONEIC. Ecco, l'ONEIC non era questa la scuola. No, non ce l'ho la quindi, Bologna, questa, sì, questa questo. Lì avevano chiesto la costruzione di un asilo per i bambini della zona e, questo, e io ho tutta la conversazione, tutta la corrispondenza intercorsa tra l'ONEIC, la prefettura, le copie ce l'hanno consegnate alla Valeria. Insomma, la costruzione è cominciata nel 1928 e hanno, i primi vostri nonni hanno incominciato a frequentare l'asilo verso il 30. Questa è l'informazione. Scuola San Quirino, scuola San Quirino, non ho raccolto dati, però posso raccontarvi l'episodio del bombardamento. Io ero presente in Via Fiume quando una bomba ha colpito in pieno la scuola materna, la scuola San Quirino. E ci sono stati parecchi morti e nel mio libro, un ricordo, un diario, ho accennato come sono state portate in salvo queste persone. un altro argomento. Se voi avete visto le fotografie del Viale Venezia, a me ha colpito, ero bambina, per cui quello che posso dire, il confronto, come si può dire, se voi guardate, le ville dell'ultima parte del Viale Venezia erano simili sia a sinistra che a destra. Questo era molto bello, eccolo qua, questo si vede, ma non tutte hanno interrotto poi la costruzione, ma alcune sono ancora. Poi cosa posso raccontarvi ancora? Che non c'erano mezzi e lungo le strade di Ponte d'Uso, Viale Venezia, eccetera, passavano i cavalli, i contadini con i cavalli, e trainavano non un traino normale, una carrozza, un cestone. Questi cestoni, forse qualcuno l'avrà visto, cestoni con dentro. Senza ruote. Ah, questo non lo sapevo. Ecco, e noi ci si attaccava dentro. Non lo so, erano ceste grandi. C'è una cosa che ti trascina, si chiama treggia, secondo me. Ma era un cesto su delle ruote, non era trascinata. No, delle la ruote. Treggia non ha le ruote. Ecco, questo è i ricordi miei, che poi per andare in chiesa non c'era. Ecco un'altra cosa, la chiesa, non c'era chiesa, e noi andavamo alla cappelletta piccola delle scuole materne, di Scuola Bologna, vicino a quella del fattoria. E, però le persone erano tantissime in Viale Venezia, e allora si andava alla fine del Viale Venezia, dove adesso ci sono, di fronte alle case Incis, che c'è quel portico, e lì c'era una grande casa, e al terzo piano un grande caverone, e noi assistevamo alla messa lì, se no si andava a piedi a Gries, in mezzo a neve che noi bambine saremmo state 80-100 metri, un metro, e lungo la strada la neve ci copriva, e andavamo alla messa di Gries. È vero, allora c'era tanta neve. Tanta. Ecco, questo l'ho detto grosso modo, non da discorso, da ricordi. Grazie. Una notizia che può interessare lei, sa dove andavamo a rubare l'uva? Sì. Dietro al monumento alla Vittoria. Dove abita? Dove c'è cappelli, eccetera. Era tutto un vigneto, fino alla Gries. E noi la sera andavamo a rubar l'uva. Bene, allora grazie a tutti. Prego. Volevo dire che hanno tagliato gli alberi in Viale Venezia. Esatto, sì, è vero. Sì. Si vedono come un altro posto. Così si vedono di volta in volta. Volevo dire che è quella casa che è di fronte allo stadio, che hanno tagliato i rami degli alberi, che quella casa dorme in due scuole, c'è l'asilo, la scuola. Sì. Io da bambina ci ho vissuto lì. Sì. Cos'erano originariamente? Il caso della milizia? Sì, era, sì, dove c'è la scuola media. Sì, era un collegio. Milani, c'era, una sorta di collegio militare. C'era la milizia volontaria di sicurezza nazionale, che erano le camicie nere. Sì. Era la caserma delle camicie nere. Infatti c'è... Dopo, c'era un collegio di giovani. Sì, bene, perché poi c'è scuola militare. Sì. Si vede anche dalla forma, no? Come si cambia, no? Bene, allora se ci sono altre domande, curiosità. Sì, nelle pascoli e del complesso Longoni. Non è nel percorso. Domani sera c'è presso appunto le ex pascoli, organizzata dal liceo, dall'associazione ex studenti del Carducci e tanti altri partner, l'inaugurazione della mostra appunto, che vuole ripercorrere un po' la storia di quell'edificio, quindi forse quella sarà anche l'occasione più opportuna per fare anche domande riguardo a quel complesso. Questa sera rimaniamo legati a questo tema. Alle ore 18. Io ringrazio ancora Paola Bassetti, Davide Dellai, Adavita, Michele Lettieri, tutti quanti coloro hanno voluto partecipare, l'architetto Azzolini. quindi l'appuntamento è il 21 settembre. A settembre alle 15. Alle 15. Davanti al Lido. Grazie.